La versione di Oscar, Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, in questo giovedì 18 di giugno, 16:32 primi 25 secondi, in diretta agli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazio, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, e per intervenire sul tema di oggi. Oggi parleremo della polemica di Ségolène Royal sulla Nutella, ma in realtà non era contro la Nutella, come vi spiegheremo, era sull'olio di palma. E perché era sull'olio di palma? Era sull'olio di palma perché la Francia da anni ha una contesa aperta a favore dell'olio di colza che produce lei, quindi la Nutella in realtà è un puro pretesto. E allora, per spiegarvi meglio la vicenda imbarazzante di Ségolène Royal, che poi ha dovuto fare marcia indietro attaccando la Nutella, prendiamo lo spunto per parlare un pochino di questa vicenda degli oli e della guerra che c'è dietro a livello internazionale, in cui naturalmente ognuno che produce uno dei tipi di oli vegetale diverso dice che tutti gli altri fanno crepare, in buona sostanza. Però il nostro compito è quello di tentare di spiegare e approfondire che cosa c'è dietro, perché altrimenti ci riduciamo a una visione un po' come quella di Michelle Obama, che gira il mondo cucinando leggero e spiegando che suo marito non si ingozza. Ci crederò molto poco al fatto che il presidente degli Stati Uniti, con quello che ha da fare, non si ingozza, e noi tutti quanti siamo convinti poi di essere depositari di una visione di cosa voglia dire mangiare sano, naturalmente solo con i nostri prodotti, tutti gli altri farebbero male. In realtà non è esattamente così, e quindi la vicenda dell'incidente del Ségolène Royal ha dietro una storia pesante, perché ha una storia di emendamenti a leggi francesi contro l'olio di palma, di vittorie nei tribunali francesi di paesi africani come la Costa d'Avorio, che produce a propria volta olio di palma, con la tesi ufficiale francese sconfitta. Quindi è un bel filone da approfondire, anche perché sapete che il report poche settimane fa a propria volta ha fatto servizi contro l'olio di palma, in cui in realtà si riproponevano tale e quale gli argomenti usati da Ségolène Royal. Ma sono argomenti che in realtà vanno approfonditi, perché rischiano di essere molto polemici, ma nel nome di altri oli vegetali. Il problema è capire di che cosa stiamo parlando. Allora, prima di ascoltare Ségolène Royal e di presentare poi l'ospite, che in realtà ha un libro che io vi consiglio molto di leggere per approfondire tutto ciò che c'è dietro alla guerra dell'olio, un'informazione dovuta da parte mia, perché questo rischiava di essere l'ultimo giorno qui mio a Radio 24, rischiava di esserlo per la conseguenza di una vicenda giudiziaria, e invece non è così. Per trasparenza io ve lo devo dire, perché un ex presidente di Confindustria, Montezemolo, mi aveva querelato chiedendomi 700.000 euro, ed è ovvio che se fossi stato condannato, con ogni probabilità finivo di fare giornalista di Radio 24 che è di Confindustria. Però il giudice del Tribunale Civile di Milano ha deciso, lo trovate su Corriere della Sera di oggi, pagina 8, il supplemento di Milano, che in realtà io non avevo commesso alcun reato, non lo avevano commesso i giornalisti, i miei colleghi che avevano scritto quello che avevo detto, e ha condannato Montezemolo, l'ex presidente di Confindustria, a pagare 70.000 euro, 24.000 a me, 24.000 agli altri giornalisti e gli altri allo Stato. Questo lo dico senza alcuna personale soddisfazione, ma però tanto vi dovevo, perché giustamente già ho commesso errore in passato, ma di sicuro ci mancano solo le condanne sulla mia testa, e poi certo avrei finito di stare a questi microfoni. Invece è andata al contrario rispetto a chi mi aveva chiesto 700.000 euro, e non voglio aggiungere altro. Andiamo invece all'argomento del giorno e sentiamo le parole da cui è partita la polemica, poi rientrata sulla Nutella di Ségolène Royal. Il faut arrêter de manger du Nutella, par exemple, parce que ça c'est l'huile de palme. Ah non, c'est bon le Nutella. Ben oui, mais il faut pas, voilà, parce que c'est l'huile de palme qui a remplacé les arbres, et donc il y a eu des dégâts considérables. Vous pouvez faire couler toute une boîte en disant il faut pas manger de Nutella. Il faut qu'ils utilisent d'autres matières premières. Eccoci, come vedete era chiaramente l'olio di palma l'argomento per il quale Ségolène Royal diceva niente Nutella, e questo argomento dietro c'ha preoccupazioni di tipo salute, oppure invece un altro semplicemente l'interesse commerciale della Francia? Ecco, per capire questo e tante altre cose nella guerra degli oli, tanto più che c'è l'Expo in corso, abbiamo chiamato l'autrice di un libro che si chiama Perché è scoppiata la guerra dell'olio, sono 200 paginette molto belle, perché c'è sia l'aspetto di inquadramento dal punto di vista della sostenibilità dei diversi tipi di olio che si producono nel mondo a fronte della proiezione di aumento di un paio di miliardi di abitanti del pianeta Terra entro il 2050, le caratteristiche di ognuno, chi lo produce e perché, cosa sta succedendo sul mercato, cosa significa in termini di salute e che cosa in termini di guerre industriali. Ecco, l'autrice di questo libro, Perché è scoppiata la guerra dell'olio, Giunti editore, è Rita Fatiguso. Rita Fatiguso è una giornalista ed è corrispondente del Sole 24 Ore in Cina e ha scritto questo libro insieme a José Galvez. Grazie di essere con noi collegata dalla Cina, Rita. Ciao Oscar, ti parlo dal paese che è il primo consumatore al mondo di olio di palma. Il dato del maggio scorso ha superato l'India, grande record. E però non è il più grande produttore, perché in realtà l'olio di palma, che come no, ovvio ha bisogno della palma, quindi un paese tropicale, è la Malesia. Ecco, sì, d'accordo, però perché ti ho detto questa cosa del paese in cui io vivo ormai da 2 anni? E perché secondo me, a parte l'atteggiamento della Royal, che sicuramente insomma avrai avuto modo anche tu di stigmatizzare prima, perché secondo me non è possibile affrontare questo tema né dal punto di vista dell'Italia, della Francia, dell'Europa, bisogna veramente alzare l'obiettivo. Sì. E perché bisogna proprio fare un discorso di globalizzazione, dobbiamo renderci conto che il futuro dell'alimentazione mondiale purtroppo, o per fortuna, non si sa ancora, non può prescindere dall'olio di palma. Ricordiamo innanzitutto a chi ci ascolta che il nostro giustamente prediletto, iperpregiato, ipersalubre olio extravergine di oliva rappresenta poco più del 2% del mercato mondiale di tutti gli oli vegetali, no? Solo il 3% dell'olio 3%. Di oliva. Il 90% è costituito del consumo mondiale da palma, semi di soia, semi di colza e semi di girasole. Mi sono fatto una cultura cavando in questo coso che è inoppugnabile, quindi c'è poco da fare, non si può prescindere, bisogna fare i conti con questa domanda enorme e i paesi che lo producono, giustamente come dicevi tu, non si trovano nei posti più occidentali, più avanzati, si trovano qui, si trovano nel sud-est asiatico, soprattutto la Malesia, l'Indonesia e anche in Africa e adesso anche in Ecuador, in America Latina. Il vero problema è cercare di capire come gestire questo fabbisogno che cresce tantissimo. E devi sapere che siamo partiti con l'autore, il mio coautore, a cercare di vedere un po' cosa ci fosse dietro. Da un dato molto banale, che il 30% del nostro organismo è fatto di grasso, persino il cervello è fatto per il 30% di grasso, quindi è un fabbisogno che il mondo deve essere oliato, deve girare, e l'olio... No, aspetta, perché il mondo deve essere oliato, detto così, tu adesso stai in Cina, però in Italia è una classica frase da intercettazione di mafia capitale, cioè questo è il tipo di oliatura che si usa nel linguaggio. Per poter funzionare, ecco. La macchina deve funzionare, per funzionare bisogna di essere oliata in senso materiale, non in quel senso che magari intendete voi in Italia, no vabbè, a parte gli scherzi, sicuramente è molto importante garantire questo fabbisogno. Purtroppo siamo destinati ad essere 9 miliardi nel 2050, secondo le statistiche, quindi dai 7 miliardi attuali, quindi è un dramma cercare di mandare incontro al fabbisogno di queste popolazioni che sono nei paesi asiatici, sono nei paesi africani, cioè la domanda più alta viene proprio da regioni completamente diverse, ma esiste anche un sistema di multinazionali che usa di palma perché è più duttile, perché è più facile anche da una resa maggiore, e sicuramente dei 4 oli che ho detto prima ha una resa maggiore e costa anche di meno alle multinazionali. La cosa importante è che loro riescano a utilizzare un olio di palma che sia certificato, che sia in qualche modo garantito, perché sicuramente un uso, una produzione scriteriata con deforestazione, tutto ciò che mi sembra che sia uscito fuori anche dalla trasmissione della Gabanelli, che io purtroppo non ho visto, dato che vivo qua a Pechino, però appunto per evitare questi danni all'ambiente e anche ovviamente alla salute umana, bisogna che queste multinazionali che sono i grandi attori, quelli che muovono veramente le pedine nel mondo a livello appunto di mercato anche degli oli, quindi la produzione, la distribuzione di prodotti alimentari che utilizzano anche l'olio di palma, diciamo siano trasparenti nel loro modo di approvvigionarsi e anche di confezionare i prodotti. L'etichetta è importantissimo, la consapevolezza del consumatore. Diciamo che per chi ha visto la puntata di report che era sulla vicenda degli oli, lì l'invito durissimo, esplicito che faceva report era a non usare l'olio di palma perché grasso saturo, il che vuol dire colesterolo, che è il classico argomento utilizzato anche nella guerra, che per anni nei tribunali e in politica la Francia, ripeto, perché produttrice e interessata economicamente all'olio di colza, fa all'olio di palma. Naturalmente noi stessi, parlandone il sabato poi nel Conte della Belva, abbiamo spiegato ai nostri ascoltatori che questo tipo di accusa nasce oggi contro l'olio di palma, che per esempio no, non ha grassi idrogenati, esattamente da coloro che due o tre anni fa facevano campagne contro l'uso dei grassi idrogenati. E quindi è un po' un paradosso, bisogna sapere leggere dietro gli interessi economici di questo tipo di accuse. Anche il burro ha una enorme quantità di grassi saturi, più dell'olio di palma e di colesterolo, e il burro tra che è un olio, ovviamente è un grasso non vegetale ma animale. Per produrre mezzo chilo di burro ci vogliono litri e litri di latte, ci vogliono insomma 10 litri di latte, e di quei 10 litri di latte significa, in termini di quantità di acqua necessaria per produrli, un multiplo rispetto a un equivalente unità di olio vegetale. Quindi l'essenziale è spiegarsi bene quando con gli ascoltatori e i lettori, perché dire l'olio di palma è colesterolo fai il paragone con tutti gli altri tipi di grassi, di contenuto di colesterolo, e spieghi davvero in che cosa consiste il rischio più o meno elevato a seconda delle quantità di assunzione per tipi di grassi saturi, poliinsaturi, idrogenati o meno, eccetera eccetera, oppure il rischio è di fare una campagna a nome degli interessi di chi produce gli altri oli, cosa che nel vostro libro, per questo io vi consiglio di leggerlo cari ascoltatori, nel libro Diritto Faticoso di José Gálvez è spiegato benissimo, cioè si toccano anche l'aspetto, voglio dire, della composizione in termini di tipologie di grassi dei diversi oli, è un aspetto che ha bisogno di questa informazione. Per questo le etichette, infatti, e la trasparenza del processo di lavorazione d'origine eccetera eccetera è una questione fondamentale, perché altrimenti ridursi a dire questo è colesterolo e provoca la morte, come nel caso della guerra francese nei tribunali 2012-2013, si rivela come un artificio polemico. È così o no, Rita? Assolutamente, sì, no, lo è senz'altro, anche perché come insomma si poteva anche intuire, dietro c'era tutta una politica di lobby molto così larvata, ma non troppo, a favore dell'olio di colza, perché invece la Francia ne produce tanto, quindi la Nutella, che pure è in cima ai desideri di tutti quanti i grandissimi consumatori francesi, che è prodotta anche con questo tipo, con appunto di olio di palma, che appunto è più utile, riesce veramente a ottimizzare il prodotto dal punto di vista del gusto e a dare quella morbidezza che appunto altre creme non hanno, e che è un po' il segreto, no, del suo ideatore Michele Ferrero, che insomma è anche recentemente scomparso, e quindi diciamo che è qualcosa che dietro vede le lobby degli agricoltori francesi. Esattamente. È successo anche a livello globale tra America, quando ha cercato di lottare contro l'olio di palma, cercando di mantenere invece la supremazia della soia. E questo è stato veramente un'altra guerra terribile che la Malesia è riuscita a vincere grazie a una sottile opera di un paese che è anche molto piccolo, no? Tipo Davide Golia, è riuscita comunque a vincere alla lunga, ma lì in quel contesto, come spieghiamo nel nostro libro, veramente gli americani hanno fatto ricorso a qualsiasi tipo di campagna, sì, sì, anche mediatica, per cercare di spiegare che appunto l'olio di palma non andava bene, invece l'olio di soia sì. Noi dedichiamo anche un capitolo anche alla soia, agli OGM, all'upgrading, a tutte queste altre. Allora aspetta che ci arriviamo dopo l'interruzione, perché una delle obiezioni fondate, tra l'altro oggi esce in versione integrale, leggete, io l'ho già letta, l'enciclica del Papa Laudato Si, che è proprio anch'essa sul consumo di terra, quindi sul land grabbing, sugli OGM, ha dei giudizi che la faranno piacere molto a tutti coloro che sono contro il mercato, le imprese, la finanza, eccetera, eccetera. Attenti a leggere bene però, perché sugli OGM c'è un giudizio che non è contrario prioristicamente, dice che bisogna valutare caso per caso, riconoscendo che grazie agli OGM si risolvono problemi anche di sostenibilità e di sfamabilità di centinaia di migliaia di persone. Però siamo proprio sull'onda delle notizie del giorno per chiederti di dare una risposta su uno degli argomenti ricorrenti. Malesia, le multinazionali in realtà producono l'olio di palma grazie a un ipersfruttamento della terra e dei coltivatori, è così o anche questa è un'arma di chi produce altri oli e in realtà non è proprio così? Cari ascoltatori, ricordatevi che la Francia contro la Nutella e contro l'olio di palma addirittura approvò una norma sulla legge di finanziamento sanitario del 2013 che poi decadde, ma quindi questa storia di Ségolène Royal ha una premessa francese un po' diversa dalla preoccupazione della salute dei francesi. Spero che ve l'abbiamo spiegato. Strade e poi torniamo sul punto delicato dello sfruttamento della terra, le multinazionali e la Malesia. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a parlare della questione dell'olio di palma, che era il vero argomento per cui Ségolène Royal ha detto no alla Nutella, poi si è dovuta scusare, ha dovuto contraddirsi via Twitter e chiedere scusa. Nella realtà abbiamo spiegato a voi che la Francia da anni conduce, in quanto produttrice interessata all'olio di colza, un altro olio vegetale, una guerra nei tribunali e in politica contro l'olio di palma e contro la Nutella, che dichiara di usarlo. E abbiamo anche spiegato che in realtà dietro bisogna guardare con grande attenzione tutti i tipi di olio vegetale, quali più necessari per la sostenibilità di 9 miliardi di persone che saranno sul pianeta Terra entro il 2050, e vedere anche con attenzione che in questa grande guerra internazionale dell'olio ci sono argomenti per la salute che vengono utilizzati in maniera molto disinvolta, perché c'erano invece gli interessi geostrategici delle aree che sono più interessate a un tipo di olio vegetale piuttosto che sull'altro, in particolare nelle Americhe la soia, la Francia abbiamo detto la colza, l'olio di palma interessa paesi tropicali meno forti politicamente rispetto a questi, e bisogna stare attenti anche agli argomenti salute, perché ovviamente se si dice l'olio di palma colesterolo, allora il burro voglio mettermi a ridere. Ed eravamo arrivati al punto l'olio di palma, che sarebbe il simbolo, anzi la leva attraverso la quale le multinazionali distruggono le foreste in Malesia. È così o non è così, Rita? Ma la Malesia è il primo produttore al mondo, quindi è indiscutibile il suo ruolo centrale nella produzione, ma proprio per questo è stato il primo paese, avendo appunto scelto di maggior parte dei casi di convertire la precedente industria della gomma in questo tipo di a scontrarsi contro dei problemi. Certo, ci sono stati dei periodi e delle zone molto come dire toccate da questo fenomeno di trasformazione e anche in maniera attuata in maniera anche abbastanza come indiscriminata, ma la Malesia, a differenza della confinante Indonesia, che invece si ritrova adesso ad avere gli stessi problemi, anche l'Indonesia è il secondo paese, certo, è un pezzo grosso in questa catena, diciamo, di mercato, è stata la prima a come dire anche cercare di trovare una soluzione a lo sfruttamento eccessivo massivo di questo tipo di coltivazione, per cui ha creato una round table for sustainable oil palm oil, ha cercato di trovare delle strade anche per, ecco, l'ultima, noi il nostro libro comincia anche ricordando molto banalmente che Sime Darby, che è il colosso dell'olio di palma appunto della Malesia, ha comprato, ha acquisito in maniera proprio rivoluzionaria New Britain Palm Oil, che invece era il più virtuoso dei produttori in termini di sostenibilità. Piccolo, quindi vuol dire che si è convinta della giustezza, diciamo, di questo nuovo metodo, e quindi a tal punto da inglobare in sé questa azienda con le sue prassi, in modo tale da, da poterle appunto inserire nella propria azienda. Quindi sicuramente siamo presenti dal punto di vista del luogo di produzione a un'inversione di rotta molto forte. Poi è stata il paese anche un impulso alla certificazione dell'olio sostenibile. Ora non dilungo in 10.000 possibilità che ci sono, le varie tipologie, lo spieghiamo bene nel libro, anche perché ho dovuto fare anche una cultura non solo all'olio di palma, ma in tutti gli oli, perché ricordo che il vero titolo del libro è l'olio giusto. E quindi perché è scoppiata la guerra è il sottotitolo, però il titolo è l'olio giusto. Quale è l'olio giusto, come si arriva all'olio giusto e se esiste prima di tutto un olio giusto? Perché l'olio giustissimo, l'olio extravergine di oliva, che è il 3% della produzione mondiale, non lo possiamo garantire a tutti, e nemmeno un cucchiaino la mattina. Perché l'olio di palma è il 36% invece. È molto di meno, comunque sicuramente è molto di più, scusate, ma è come dire, è l'olio che va, è più richiesto anche per occupazioni che crescono di più anche quantitativamente, come bocche da sfamare e tutto il resto. Quelli che crescono, le classi emergenti in Cina anche, che vogliono l'olio extravergine, imparano a conoscerlo e così via, sono una percentuale piccolissima, consapevole. Però, allora sentiamo un secondo rapidamente, c'è qualche ascoltatore tipo Pino da Forlì, prego. Pronto? Eccoci Pino, dici. Pronto, ciao Oscar, buona serata, grazie per avermi chiamato. Allora, ho ascoltato con attenzione tutta la trasmissione, come ti ascolto tutti i giorni. Ho chiesto di intervenire perché io sono un produttore di prodotti, è una ripetizione, ma va bene, sono un po' emozionato. Non ti preoccupare, di che? Di prodotti da forno, quindi focacceria, pane e dolci. E tu userai l'olio d'oliva, essenzialmente. La mia azienda usa da sempre, sì, solo ed esclusivamente olio extravergine, okay, di oliva. Ma mica lo devi dire in termini polemici? No, non è una polemica, ti dico solo questo. Allora, qui mi sembra che il dibattito verta solamente sulla deforestazione, togliamo gli alberi, piantiamo le palme, facciamo l'olio, lo vendiamo. Invece il problema è un altro. Qui il problema è un problema nutrizionale. Sì. Cioè, ripeto, invito a leggere tutti il libro di Rita Fattiguso, l'oro giusto, perché è scoppiata la guerra dell'oro, proprio perché lì si compara tutto, però dire facciamo la guerra mondiale all'oro di palma, dimentichiamo che con quello sfamiamo il mondo. Comunque continuate con la 24, appuntamento a domani.